Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo ricordato poche settimane fa i numeri tragici della sicurezza stradale. 200.000 incidenti all'anno, oltre 300.000 feriti e 4.000 i morti. E infine, come se non bastasse, un costo per lo Stato di 30 miliardi all'anno, circa il 2% del PIL. Sono i numeri, lo ripetiamo ancora una volta, di una guerra che si combatte ogni anno su strade, autostrade, agli incroci, ai semafori. Dimezzare i costi sociali è l'obiettivo del DIS, il Centro di Sicurezza Stradale, che è nato da poco, circa un anno, e con l'aiuto del quale vi parleremo in quattro puntate nelle prossime settimane di quanto le nuove tecnologie e la ricerca scientifica possano fare per migliorare la sicurezza stradale. Un obiettivo che mi pare debba essere parte integrante di qualunque progetto di città intelligente. Cominciamo questa sera con una prima puntata dedicata al veicolo intelligente. Ne parliamo con il consigliere del DIS e professore dell'Università di Parma, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Alberto Broggi. Buonasera Broggi. Buonasera. Allora Broggi, cominciamo a, come dire, mettere qualche paletto. Quando parliamo di veicolo intelligente, che cosa intendiamo? Che cos'è che sa fare un veicolo intelligente che un veicolo convenzionale non sa fare? Ma il veicolo intelligente ha la caratteristica di avere intelligenza a bordo, quindi il veicolo capisce la situazione stradale, e quindi potrebbe anche agire di conseguenza. Ad esempio, per capire la situazione stradale significa che il veicolo è in grado di vedere che davanti c'è un pedone, che c'è la carreggiata che è curva, oppure c'è un altro veicolo, quindi capisce la situazione e capisce anche la pericolosità della situazione. Certo, e da un punto di vista tecnologico oggi la difficoltà dov'è? Sì, adesso in tanti stanno lavorando sulla percezione, su un sistema che dia al veicolo la capacità di percepire il mondo, cioè di capire esattamente che c'è un ostacolo, che tipo di ostacolo è, come si sta muovendo, e magari che c'è un pedone che sta per attraversare, oppure c'è un veicolo che è lento rispetto alla nostra velocità. Quindi in tanti stanno appunto lavorando sul sviluppare capacità percettiva, cioè capire cosa c'è intorno a me, davanti, di dietro, di lato. Pensiamo ad esempio quando facciamo le manovre dobbiamo guardare di dietro, quando circoliamo in modalità normale guardiamo davanti, nelle rotonde dobbiamo guardare di lato, insomma dobbiamo avere una visibilità a 360 gradi intorno al veicolo che ci permette veramente di capire qual è la situazione stradale. E in più questa visibilità deve essere mantenuta al variare delle condizioni meteorologiche, quindi se c'è polvere, se c'è nebbia, se c'è il sole in faccia, diciamo, che può abbagliare delle telecamere, insomma è tutto molto complicato, servono molti sensori che si completano a vicenda, se non sbaglio, per fare questa cosa. Uno dei problemi più grossi, perché nelle situazioni, diciamo, normali, di guida normale, già la tecnologia c'è, ce l'abbiamo, con telecamere, con laser, con radar, riusciamo più o meno a capire abbastanza precisamente la situazione. Il problema grosso è proprio quando c'è situazione di meteo avverso, quando sta piovendo, quando certo. Il sole è di fronte, questo è un problema enorme che delle volte dà fastidio anche ai guidatori. Infatti, umani. Figuriamoci a una telecamera che deve distinguere degli oggetti. Ecco, ma una volta che l'automobile ha imparato a percepire, a interpretare quello che gli sta intorno, che tipo di aiuto può dare? Cosa fa? Frena da sola? Non lo so. Sì, ci sono diversi metodi di intervento. I più semplici sono quelli che ormai già abbiamo su molte vetture, di dare un'informazione al guidatore, quindi fare un beep, accendere un LED, insomma, in modo tale che il guidatore capisca che c'è una situazione particolare. E un secondo metodo è quello di prendere il controllo temporaneo del veicolo, quindi ad esempio fare una frenata e poi rilasciare subito il controllo, così il guidatore poi riprende in mano il veicolo e riguida. E un terzo livello limite è quello proprio di avere il veicolo completamente automatico. Il guidatore diventa un passeggero come tutti gli altri e il veicolo si muove automaticamente. Ecco, tra l'altro ci sono già degli assaggi comunque di questo futuro in alcune, diciamo, automobili che già sono in commercio, no? Alcuni. Sì, effettivamente ci sono già dei sistemi che sono, diciamo, che hanno una automatizzazione parziale. Per esempio, ma ci sono alcuni sistemi che sull'autostrada, ad esempio, si può impostare il sistema di lane keeping, che è quello che mantiene il veicolo nella corsia. Sì, in carreggiata, quindi guardando le righe proprio. Guardando le righe, certo, mantiene sulla corsia, e poi si può accendere anche il sistema di ACC, che è questo cruise control adattativo, insomma, per permettere di tenere la distanza di sicurezza col veicolo di fronte. E se ci pensiamo, già questi due sistemi, già da soli, se si potessero accendere contemporaneamente, darebbero al veicolo praticamente una guida automatica, anche se in queste condizioni, quelle autostradali, che sono, diciamo, particolarmente semplici. I pedoni che attraversano la strada, per esempio, in autostrada non ci sono. Poi ogni tanto succedono anche cose strane. Senta, ma le devo chiedere una cosa. Ma mettiamo che a un certo punto un veicolo in guida automatica faccia un errore e metta sotto qualcuno. Di chi è la colpa? Questo ancora non è molto chiaro. Diciamo che ci sono centri di ricerca che lavorano sulla tecnologia e qualcun altro invece che lavora sugli aspetti legislativi, e c'è molto da fare ancora. Bisogna capire e definire gli aspetti normativi di questi nuovi sistemi, che adesso non esistono, ma a brevissimo esisteranno. Saranno una grossissima rivoluzione dal punto di vista della mobilità, ma ci vuole comunque una legislazione che permetta appunto di poterli mettere sulla strada e poterli veramente utilizzare. Ecco, a proposito di utilizzare, bisogna anche poi utilizzarli bene questi sistemi. Adesso come siamo messi e come vede questo tema, diciamo, della formazione? Ma effettivamente questo è un grosso problema, perché normalmente quando abbiamo l'istruttore di scuola guida che spiega ai ragazzi come utilizzare il veicolo, di solito si fa riferimento alla modalità tradizionale, quindi guida tradizionale. Qualcuno, visto che sta iniziando a spiegare questi nuovi sistemi, addirittura in alcuni veicoli ci sono dei manuali che spiegano come e quando utilizzarle, cioè questo sistema particolare, ad esempio la frenata o il sistema di collision mitigation, non va utilizzato ad esempio su strade di montagna oppure in altre particolari situazioni. Quindi il guidatore deve saperle queste cose, deve essere conscio che il sistema ha dei limiti. Certo, perché se poi viene attivato nella situazione sbagliata, invece che risolvere problemi ne crea di nuovi. Va bene, grazie Broggi. Grazie. È tutto, a domani.